club, buon ascolto. Ah, ciao club, buonasera. Vabbè, come va la voce? Sì, non mi intendevo in tisocco. Ma non stai prendendo niente, antibiotico non stai prendendo? No, niente. Ma non fosse caduto sangue, lì mi disini e non posso mangiare più nulla. È un bel casino. Ma cos'è, bronchite, cos'è? Influenza era, solo che sono rimasto senza voce. Sì, come ha fatto a me, mi sono uscite anche le placche nella gola. Sto pigliando quelle pastiglie di iodo sano. Ah, vediamo. Intanto se non fa il corso suo non c'è niente da fare. No, c'ho altro, mi c'ho questo coso. Questo sfogo cutaneo. Che lo sta facendo per pulire il fegato. Dalle medicine. E sono senza voce, non c'ho altro. Ehi, appassa piano piano. Ehi, non avrà passato. Io a me mi è durato una settimana e poi mi era passato. Ehi, ma io sono prima in Adario, sì. Ehi, vabbè, evidentemente è cosa lunga. Ehi, proprio male, mi ha preso. Ehi, appassa piano piano, vedi che passa. Ehi, non avrà passato. Ehi, sicuramente già passa. Piano piano vedrai già passa tutto. Mia moglie sta portando il cane. Ah, lei lo sta portando. Cosa le butta indietro? Cosa? Ho detto perché lo sta portando lei, tu non stai uscendo. Oh, io non ve la posso manca camminare. Evidentemente ancora si debole. Io già lo so. Sì, vabbè, piano piano riesci a... Vedrai che già si mette tutto a posto, vai, piano piano, non c'è problema. E via, vabbè, là, ci sentiamo dopo, intanto non vedi nessuno ancora. Ehi, ehi, vabbè, già sono qua. Sono qua in ascolto io, dai, non c'è problema. Ehi, ciao, cla, ciao. Ciao, ciao, dopo. Sì, buonasera. Ciao Giù, buonasera. Ciao Natali. Sono sì, io ce l'ho adesso. E ci dovrebbe essere Claudio, nascolto. Ah, ok, ho capito. Andare. No, io ero a computer. Tutta la sera mi do un buon traccato. Mi stare seduto una volta al computer, ma comunque. Adesso ho cambiato stanza. E anche io mi stanco e me ne fugo. E beh, intanto cosa fai a casa? A uscire non si può uscire, la giornata non è molto bella, anzi è brutta, brucia. Qui ogni tanto ho una passata di pioggianella. Per cui si sta meglio a casa, al caldo. E poi io non sto tanto bene. Oia, mamma mia. Influenzato, eh? Periodo brutto questo. Per l'influenza bisogna stare molto attenti. Quando si esce a coprirsi bene, oh, vabbè che magari ti si avvicina uno, una persona qualsiasi te lo può contagiare. Infatti. Sì che il discorso coprirsi va bene, da un certo punto di vista va bene, però poi se tu vai al bar a prendere un caffè, magari c'è un altro vicino a te, prendendo anche lui un caffè, ti respira addosso, ti respira ed ecco che ti contagia. Vabbè. Magari chi ci sveglia oggigiorno, chi è che sta bene a Tarì? Che più che meno tutti quanti siamo butti male. Infatti, io non riesco a capire. E già si sente dalla voce che è una voce molto, ma molto strana, però d'altronde cosa vuoi fare? E non ti stai curando? Voce da poco, ma ne c'ha, buonasera. Poco, ma ne sarai tu. Ciao Giulio, ciao Natali. Ciao Franco, ben ascoltato dopo tanto tempo. Tutto bene? Ehi, no, scusi dai, non ci possiamo lamentare, c'è di peggio. Ah beh, quello sicuramente c'è di peggio, però tiriamo a campare sempre, dai, intanto è inutile. Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Lui, se ci sente qualcuno, quanto se ne ride. È ben andata lì, cosa mi dici? Di nuovo beccato, ti ha. O ancora non ti sei ripreso dalla volta scorsa? No, mi sono ripreso, non riesco a parlare neanche. E quello è che sono un rauco. Ti sente, cazzo. Sente parecchio. Fatti, insomma. L'altra volta non eri così, la voce non era così bassa, dai, così rauca. Purtroppo è così. Insomma, non sta parlando nessuno questa influenza quest'anno. Il mal di stagione, sai, uno si colica tranquillo, è sano come un pesce, poi domani mattina si alza con raffreddore. Succede fra di questo periodo. Molta gente quest'anno, anche i miei colleghi, padre, figlio, una volta che se la becca uno a casa la contagia all'altro. Sì, stavo cercando leggendo l'altro giorno un articolo sul giornale proprio a riguardo dell'influenza e c'erano circa, ne sono nei giorni festivi, di Natale eccetera, che sono dovuto ricorrere 1800 persone circa, mancavano poche persone, 1800 a pronto soccorso. Di questi 1800 quasi 500 sono dovuti, li hanno dovuti ricoverare perché stavano veramente male, ti puoi immaginare? Ha preso bene, quest'anno ha preso bene e speriamo di salvarci almeno. Ma questo è solo a Sassari, così se non sbaglio. Sì, sto parlando del pronto soccorso di Sassari, certo. 1800, sono nei giorni di Natale, quei giorni lì, dai, quei 4-5 giorni. 1800 circa sono dovuti andare al pronto soccorso. E di questi 1800, quasi 500 li hanno ricoverati, perché stavano veramente male. Sì, dice ti butta giù, dolori alle ossa, proprio a pezzi ti fa, Sì, appunto, quello, il discorso è quello, e oggi, cioè quest'anno è proprio brutta quanto sembra, è veramente critica la situazione. L'ho letto sul giornale, non è che l'ho letto così e ho sentito da qualcuno, l'ho letto proprio sulla Nuova Sardegna. Sì, l'ho sentito anch'io, l'ho letto o l'ho sentito anche nel giornale, adesso non ricordo il preciso, però questa storia me la ricordo. Sì, che ti puoi immaginare in tutta Italia quanti influenzati ci saranno ancora e quanti ce ne saranno passati all'ospedale, proprio per queste cose qua. Speriamo bene, speriamo che passi in fretta. Avanti, Natalie. Aspetta un attimo, sto cercando di mettere l'MD più 4 che è qua, non ne posso più. Ok, va bene, dai, cambia pure se vuoi, problemi non ce ne sono. Sì, e allora Gerbonino cosa ti ha portato qua? Ma una è una cosa brutta, ma non ti può dire qua, è frequente, però se avremo modo di conoscerci mai ne parliamo. Poi il resto tutto bene. Ah ok, beh allora no, le cose private uno se le tiene per sé, no. Non è per sbandierare 420, ci mancherebbe altro. Te lo dà domanda così, tanto per fare quattro chiacchiere, scusa anche se te l'ho fatta questa domanda. No, ma ci mancherebbe altro, perché che scusa. Qui si può parlare di quello che si può parlare, il resto si rimane a quattro occhi, si potrebbe anche dire. E cosa vuol dire? Poi il resto l'ho festeggiato con i tuoi genitori, i tuoi suoceri, li ho portati a mangiare fuori, anche per Capodanno e... Ma tutto bene, resto, tutto bene. È meglio così, sono contento per te. No, io a differenza tua invece diciamo che eravamo un po' di malumore perché il 2 di dicembre purtroppo se n'è andata mia madre e pertanto non è stato un buon Natale per noi questo, dai. E già oltre un mese fa, tant'è vero abbiamo fatto anche già la messa del mese e per cui ti puoi immaginare, vabbè, andiamo ad adelante, anzi vecchia addirittura, purtroppo prima o poi il tempo arriva per tutti. Eh sì, dai, tu sei andato peggio di me, dai. Sì, anche il mio è un dispiacere, ma non così personale, dai, come il tuo. Mi dispiace comunque di noi. Ok, ti ringrazio, Fra, ma si sa intanto, aveva 95 anni, avrebbe avuto adesso, questo mese, avrebbe compiuto 95 anni, una bella età. Tanti di lui metterebbero la prima per poterci arrivare, però siccome era lucidissima, tranquilla, così è. Perché sono contento in un certo senso che non ha sofferto, quindi, perché è morta in una sola notte, e si è sentita male e l'indomani mattina alle 5 è morta. Sono così, a differenza magari di mio padre che è morto 20 anni fa, lui già aveva sofferto per un anno. E va bene, la vita purtroppo ci riserva quello e l'altro. Sì, mi ricordo anche mia nonna è andata via, che ne aveva 98 anni, ma anche lì grazie a Dio una potenza, una roccia, proprio, mai ospedale, mai nulla, un colpo e a terra, 98 anni. Sì, era arrivata alla fine, la persona si era consumata, è proprio il caso di dire, quando ci arriva con l'età è la persona che si è consumata. Insomma, in un certo senso dà fastidio, dà tristezza, oltre al fatto del dolore, eccetera, eccetera, dà fastidio il fatto che non ha avuto mai un raffreddore, non ha avuto mai niente. Mia madre, che ha 95 anni, non è stata mai ammalata, mai. A differenza magari di noi figli, che ogni tanto qualcuno di noi viene pianificato. Sì, ma neanche io mi ricordo mia nonna malata. Mi sembra che una volta le avevo venuto il fuoco di Sant'Antonio, come si chiami proprio così. E basta, E una volta che ha fatto l'intervento, mi sembra, per gli occhi, ma per vedere meglio, E poi il sabato diceva, amico, come fare uno cannocchiale, perché vedeva da lontano, vedeva. Sì, così è la mia madre lo stesso. Così, esattamente così. Sì, appunto ti dico che siccome dove abitava lì e non c'era ascensore, e che faceva al secondo piano in una volata, proprio veloce, non c'era problema. Appunto è quello che sto dicendo. Sembrava una donna che arrivasse all'infinito, invece così, che dei punti in bianco, succede, vabbè, pazienza. La vita purtroppo è così. La vita è così. Avanti Natalia, questo microfono, cambiatelo, vai. No, innesca. Ah, innesca, capitiva. Comunque, che motivo c'è di cambiare il microfono? Io ti sento bene, suppongo Franco altrettanto. Tra l'altro siete più vicini di quanto siamo noi due, o Natalia, per cui non ti preoccupare, va bene così. Intanto il concerto Canolo non ci interessa in questi giorni almeno. Riprendi ancora, vai Natalì. Per non tenere questo in mano, Rami. Ah, ho capito, sì, allora, una questione di comunità, dai. Va bene, dai. Evidentemente ti è più comodo quando a tavolo. Sì, no, anche io sto usando l'MB24 lo stesso, ma non fischia assolutamente, non fischia per niente. Inserisci un filo dalla carcassa del microfono alla vetina che c'è sotto e lo passi questo filo dentro lo stivellato, lo stivellato, un filo unico così, e poi lo attacchi alla massa del baracchino. Probabilmente riesci a eliminare anche quel fischio lì. Provaci o Natalì, tante persone ci hanno provato ed è riuscito il discorso. Vai Franco! Sì, quindi potrebbe essere un problema di massa. Suppongo di sì, sicuramente così. Evidentemente manca qualche massa, magari si può essere interrotta anche all'interno del baracchino o del microfono, o che il microfono che è stato toccato, chi lo sa, il discorso è questo. Dunque, non le fa male, se non le fa bene, nemmeno male per farla, Tari, provaci. Prendi un pezzo di filo unipolare, lo infili dentro il filo del microfono, quello spirulato, così non lo vedi nemmeno, e praticamente rimane all'interno, ero con lì tra il baracchino e il busolotto del baracchino del coso, cioè tra il microfono e il busolotto del baracchino, per cui senta, fai prova con l'attacco, tempo il tempo non ti manca, a casa nei momenti diciamo così di pausa puoi fare anche con la boletta natalina. E ragana manca. Manca Romiglio. E se una giugana hai all'abbro il robot. Ma non devi aprire niente, togli una vetina dal pannello di sotto del microfono, metti una rondellina e ci metti un pass, ci metti e l'attacchi lì, il filo. Lo infili dentro il cavo del microfono, tanto è a molla, no? Dentro la molla lo infili, io lo vedi. Aspetta, aspetta. Vedi appena quando si allunga il filo. E questo filo poi finisce nello spinotto del baracchino all'esterno, in modo che quando tu avviti lo spinotto al baracchino è tutto a massa, no? È una massa diretta. E poi anzi che sia quello, provare non costa niente. Va bene, avanti fra. Infatti, ma prima innescava Natalì. E non ha mai funzionato bene su questo baracchino, no? Bisognerebbe avere voglia e farlo, ma già chiama quel cuocomane di Marcolino a farmelo fare. Mio, sentito l'odore, mi sembra che sia in zona qua. Avanti, signor Marco, s'accomodi. Non parli adesso, cuocomane. O te lo voglio dire s'accomodi. Se non ti va bene s'accomodi, ti dico s'accomodi. O ti posso sculare un telefono, così. Milomi, ubriacone pratico. Sarebbe Natalino, ho capito, perché hai fatto il mio nome, hai fatto quello franco, eccetera, è un natalista, oggi sì, eccetera. Ma dai, che questo qui sta perdendo il rispetto, non ha capito che io sono più grande di lui e mi deve il rispetto, quello senza ombra di dubbio. Ciao Marco, ciao, e quella non è mai arrugita, vedi? E quella è squillante, o lui se canta quella. Stamattina ero lì vicino alla Gravia e sentivo il poligono, la guerra. Oh, hanno bandito guerra lì al poligono, c'erano gli spari stamattina fra. Penso che sia tutti i giorni così, ma deve avere comunque pistole non molto potenti, perché non so che caso siano così, boh, il rumore, immagino il rumore, dai. Allora già è sempre attivo quel poligono lì, io pensavo che non stesse funzionando più, perché le cose qui a Sassari non è che durano molto, iniziano e poi finiscono il fumo così. Quello deve esistere per forza, c'è qua e a Cagliari, per esempio quelli di Duro che non ne hanno devono andare o ai Noghi o a Cagliari, perché ogni 4 mesi devono fare i tiri, se no non li rinnovano il porto d'arma, i vigili urbani lo stesso. Ah, così funziona la tariffa, non sapevo questo. Non sapevo che sono obbligati a tenere attività. Vabbè, a loro già ce l'hanno fatto comunque. E cartelli stradali. E beh Marco, attento, il boccone non all'altro canale, non si sa mai, se non ti viene la tosse. Oh, giù. E dimmi fra. L'altro giorno ho fatto un'altra trappola di antenna per il portatile, per 144, come si chiama? O 446, cos'è? Sì, LPD oppure 446 e PMR. Il quella da 47 centimetri credo che sia. Che frequenza è quella lì, non mi ricordo. Questa è 46, LPMR. L'ho provata con Claudio, già mi sentiva. Sì, vanno bene, certo, altro che se vanno bene. Quando c'è il campo libero non ci sono problemi. Il problema è quando c'è qualche ostacolo tra le antenne che non si vedono, devono essere a visione ottica, tra virgolette, chiaro. Ma, cioè, devono vedere sempre l'orizzonte, antenne con antenne se devono vedere l'orizzonte, perché sennò disba. No, no, l'ho collegata proprio alla base dell'antenna, proprio sotto la quell'antenna che ho costruito di nuovo, dai, quella che del progetto tuo. L'ho messa proprio alla base, però verso quella parte, verso Claudio, magari va, verso gli punti magari forse tu non mi senti. E perché no? Guarda, se c'è la punta per mano, io posso solo girare l'interruttore e sono già in aria, in ascolto, per cui il problema non ce ne sono. Se vuoi fare quella prova, naturalmente non tralasciando la 27 in questo momento, ma puoi fare chiamata, no, non ci sono problemi, io poi ti rispondo. E su quale canale? PMR 446. Abbiamo otto canali così. Sì, canale 7 allora, 446 081. No, adesso l'ho messo canalizzato, quindi le frequenze non le vedo più, perché l'ho messo, ci ho messo il nome del canale. Però mi sembra che sul 7 c'è gente, quindi un altro canale, dove andiamo? Beh, se tu senti va bene, ma allora fai l'1, 446 06. Canale 1 allora, dai, e io dammi il tempo di arrivare al canale 1 perché io ce l'ho sempre sintonizzato sul canale 7. Un attimino, ma ci arrivo in un serino un attimo, non ci sono problemi. Proviamo, là. Io ho messo già sull'1, credo che coincida, là. Ok, vabbè, dai. Continuiamo anche a parlare qua, quindi non ce ne sono. Per cui, aspetta, Allora, 4. Un attimino che cambia la frequenza. E aspetta che si chiama Giulio. Attento Franco, mi senti? Ti sto chiamando in tutti e due i posti. Attento Franco, ti sto chiamando sia in 27 che in PMR. Chi è quello che sta fischiando sul canale 10? No, giù, io ti sento ma tu non mi senti. E allora prova un attimino, quello ce l'hai sulla frequenza 433.075, tu non ci puoi andare. Aspetta che sono appena andato io. Quello lì, prova quello, il canale monitor nostro. Ah sì, io ce l'ho sul 14, ce l'ho io, quello che usiamo noi, sì. Ma quella è un'altra frequenza però. Sì, quello lì non è PMR, quello lì è LPD. Va bene lo stesso con questa antenna, con questa misura? Sì, va bene lo stesso. Ti volevo dire una cosa, perché alle volte in PMR non si sente, mentre invece come un ferratalino, in PMR non lo sento, nel PD lo sento benissimo. Tanto su caso strano, prova a vedere, 433.075. Io ci sono già, cioè dovrei esserci già. L'ho messa sul canale 14, mi ricordo. No, guarda, io già ti sto chiamando sia sul 10 che sul canale 1 LPD, non so se mi ascolti. Aperto 10. Un attimo chi chiama sul 10, eh? Un attimino solamente. Sì, chi sei? È un po' cupo di radio, basso, chiara la voce, però se bassino è un po' cupo. Santiago 9 più 10 con quel segnale. Un attimo Roberto, siamo in PMR, in PD, un attimo Roberto, arriviamo subito, siamo una ruota sul 10, un attimino Roberto, aspetta su questo canale che stiamo per arrivare, che sto parlando con Franco, sto parlando in LPD. Sì, ok. Riprendi Marco, scusa. Sì, no, sta funzionando, ma col microfono normale, non è amplificato quel microfono. Sì, no, no, no, è più che bene, no, pensavo fosse magari un microfono magari amplificato da poco, magari di quelli un po' scadenti. No, no, già stai andando bene, va più che bene. Ma dove sei? Vicino a me, tu, se il segnale è forte qua. Mi stai bruciando tutto, Scorpio. Anche in curva. Ciao vicino. Staccate questi potenziometri. Ciao Marco Scorpio, Giulio da questa parte. Non me ne prendere il titolo. Oh Marco, che io sono più vecchio di te. Ciao Stefano, se ci sei. E comunque vi passo gli amici, c'è Franco e c'è Natalino anche. Vai Franco, per Marco Scorpio. Capo. Sì, ciao Marco, ben sentito. Forse è per la prima volta, non lo so, riprendi. Capa, non mi ha riconosciuto, mi ha preso per Stefano, Forse perché sono rauco. Vabbè, ciao Marco, ti ha salutato anche Marcolino Condo. Ehi, l'altro Marco, ma sbaglio, sta piovendo qua. Poi io ce la devo buttare un cane in piove. Ma ne sai tu? Ciao Clan. Ciao a tutti, ciao, buonasera. Dai, mi sto preparando per portare il cane. Ciao Clan, mettigli l'ombrello anche al cane, Se la vara qua vedi, migliati, così è grande e copre sia te che il cane. Scusate un attimo, c'è qualcuno sotto, un po' lontanuccio probabilmente, che stava chiamando. Avanti che vuole entrare sul 10. Stanno sempre qua, però Marco, non ci sono problemi. Sì, ciao Claudio, Claudio, dammi retta, prendi l'ombrello verde, quello grande che usano i pastori in campagna. Quando loro sono al lavoro, c'è il cane a fianco a loro, con quell'ombrello anche il cane si dispara alla pioggia. Vai Claudio. Ah, quelli grandi del... ho capito, quelli verdi, ho capito. Oh, Robè, mi sembra che pulendo, perché oggi è tutto pulito, devo aver toccato qualcosa al DAC. Bene, sta uscendo sempre, sì? Sì, aspetta, però ti guardo i livelli, siccome ho alzato il volume un po' della radio per ascoltare a Marco, che è un po' più basso degli altri come tonalità. Aspetta, ti ricontrollo un attimo. Provo a vedere, non mi ricordo se era a 3 o a 4 il microfono. Vabbè, il Michigine è sempre al massimo, però mi sembra che ho toccato il volume del microfono, vai. Vedi un pochino se livella quello, lo lascio stare così, mi sembra che era a 4, a 3, adesso non mi ricordo. No, scusa, adesso ho acceso tutto. Guarda a vedere se il livello è sempre quello, o se ho toccato qualcosa, io non mi ricordo. Pulendo sicuramente ho toccato il livello microfonico, non mi ricordo se era a metà il Michigan era al massimo, così va bene. Ah, basta, è un peluzzino qua. Un peluzzino il Michigan? Sì, guarda il microfono, il Michigan. No, le tavolette non le toccate, mi immagino. No, le tavolette lasciate così come erano. Allora, così, ecco, ecco, sì. Era così il livello, dai, a metà era allora il Michigan. Sì, adesso va molto meglio, stavi leggermente fratturando. Comunque era comprensibilissima la radio, niente da dire. Ok, no, mi piace questa modulazione, l'ho detto, Claudio. Se le abbini quel microfono che avevi prima è ancora meglio, va benissimo, perché lo tonale ce l'hai tutto, dalle basse agli acuti, è molto lineare come tonalità, è bella. Ok, rifacciamo una prova di nuovo, lasciamo un attimo di bianco e facciamo entrare questo Massino che abbiamo sentito prima, che stava chiamando, forse è qualcuno di Alghero. Avanti che voleva entrare sul 10. Niente, non vuole entrare. Ok, riepiloghiamo, compagnia qua, Roberto da questa parte, ho sentito Claudio, Giulio e Marco Scorpio in vettura, poi credo questo Stefano che mi sembra di non conoscere, l'altro Marco e Natalino. Avanti chi deve entrare, facciamo girare Giulio e poi farà girare gli altri. Poi c'è anche Franco, scusate, lo prendo io, intanto mi hai rilanciato. Sì, c'è anche Franco, che io rilancio perché da un po' in parcheggio. Vai Franco per gli amici. Sì, ciao Roberto, forse mi ha confuso per Stefano, Roberto, confermi? Sì, allora, no, perché ho sentito un Stefano, ho detto, buh. No, forse ero io allora che ho fatto una battuta toccando. Riprendilo. Sì, anche tu stai uscendo perfettamente, ultima modulazione. Ok, poi c'era Natalino che mi baglio un uomo vecchio, avanti Natalino. Quando ti trovo te lo faccio io se sono vecchio. Malato sono, non sono vecchio. Già mi riprendo. No, lo so, sto scherzando naturalmente. Ma possibile che sei passato in officina, che non c'ero io, mi ha detto Danilo, mio fratello, ha passato un tipo brutto con una macchina bianca. Dove sei Natalino? Brutto sarai tu e Danilo. Io esitando la ciappa a Danilo. Sì, che sono passato, Robè. Era per il palo destro della macchina, che non solleva più di tanto perché si deve essere bloccato da qualche parte. Vabbè, quando vuoi avvicinati vediamo un po' cosa si può fare. Ok, facciamo girare ancora. Chi c'era? Poi mi ha detto Franco, Giulio, non ho capito, così ha detto. Sì, e ti ha risposto, quello che tu hai cambiato per Stefano era Franco. C'è Marco Scorpio, avanti Marco. Cappa. No problem. Va bene. Già passo, che sono uscito così, di sfuggita. Poi ho visto che eri impegnato e allora me ne sono andato. Gli ho detto a Danilo, già passo un altro momento. Ma dove è nata lì passa, non ci sono problemi. Scusa, ho confuso Franco con Stefano adesso, era Franco quello che ho parlato prima comunque. Sì, capa. Poi per quanto riguarda Marco Scorpio, anche noi stiamo utilizzando tutti gli apparecchi che abbiamo spolverato da poco, Io anni 80, penso qui, dai. A cavallo tra i fine 70 e i primi 80. Non sarà più preso di lì, però. Questo è uno samurai. Aspetta, un vecchio pace, boh, sarà degli anni 70, aspetta nel base, con un tanno più tre. Mi ascoltate bene? Sì, a me tu, i molti da sottoterra, dai, aspetta, ci tengo, l'aveva preso Claudio, è stato il mio primo baracchino che ho avuto, diciamo, a parte, vabbè, un vecchio che aveva un giocattolino, dai, ma questo è stato il primo baracchino che ho acquistato, dai. No, è il DAC. Scusa, di che anno è il DAC? Forse tu non lo sai. Anni 70 o qua. Invece il mio è un misero Superstar 360 FM, Marco. Un misero baracchino Superstar 360 FM. No Marco, non ti sento perché mi stavo preparando a portare il cane, ogni volta potevo portarlo prima, sta piovendo, va, mi porta beffa. Del 73, ciao, buonasera, ben sentito. Del 73, io sto andando col DAC, l'ho tutto ripristinato e lo sto facendo andare. Rubi, ripristini che mi sta squillando il telefono. Il DAC è il più bello di tutti comunque, Marco, come baracchino vintage è il più bello di tutti. E io sarevo la in quinto. Quello lì sì che era un signor apparecchi. Ma capo, con questo mi sentite, con questo apparecchio? Questo è un valvolare invece, un vecchio valvolare. Sì, ti ascolto perfettamente. Che cos'è? Che microfono? Questo è un Gemtronic. Ma un tipo ce lo stava per buttare, gli ho dato 20 euro e me l'ho portato a casa. Gli ho dato una pulitina, ho sistemato un po' il microfono. E non so che microfono sia. Fa un po' di alternata quando molla un po' la carcassa. No, ha una bella modulazione, pulita, nitida. Qua il microfono è un pace, c'era un po' la capsula in albino staccata, c'era scollata, l'ho rincollata, una schiacciatina, una drizzata, vedo che va bene ancora, dai. Ottimo per la truppa. Però datemi conferma, ecco, non lo sto toccando con la carcassa, con la massa. Così c'è alternata, vero? Sì, leggermente. Sì, la faccia l'abbiamo attaccata, la mattina è cromata con qualche segno di usura, dai. Con lo smith da sinistra, canali centro-sinistra, come la centrale, sono centrale qui tutti i vari tappi sotto per la potenza, stand-by e cose varie, dai. Ok, riprendo io l'antenna allora. Sì, confermo anch'io, Franco, esce benissimo quell'apparecchio lì, va a volare, va benissimo. Se è l'alternata probabilmente il condensatore di ingresso, il filtro, quello vorrà sostituito, perché quando è ad alimentazione così va a volare, di solito è 220, per cui dovrebbe essere quello, il condensatore di trasformazione della corrente, cioè dell'ingresso, diciamo. Sì, io come valvolare ho il Constat 25B invece, Marco. Anche quello hai tu. Ma Maurizio Cristo stai dicendo tu, Maurizio Mastronati. e c'ho anche il numero io, carissimo amico di famiglia, di mamma, eccetera, quando lavorava a Porto Torres Allini, che si abitava al grattacielo, Va bene, io provo a uscire, dai, provo a uscire a portare il cane. Comunque del 73 date, quindi insomma anch'io sto andando con un vintage di vecchia generazione. No, non dava più vatte, Marco, ma a proposito, scusa Giulio, ma il tuo che fine ha fatto? Ce l'hai sempre, sì? Sì, no, questo praticamente non dava più potenza, allora l'avevo portato da Carlo e l'avevamo tutto ripristinato, perché ero rimasto appunto quando ce l'aveva coso Massimiliano, quello di Trinità, che te lo stava mettendo a posto. No, questo è perfetto, Ho messo solo lampadine nuove, quelle originali a siluro, perché sai che sono a siluro, quelle degli strumenti, bello in ordine, pulitissimo, ordinato, non ha un graffio, l'unica cosa che dava 3 watt, adesso ne dà 25, 25 watt proprio a strumento, massima potenza. Qualcosa in più in banda laterale, proprio la valvola era completamente esaurita. Gli ho abbinato un MB più 5, le regolazioni le abbiamo fatte con Roberto e va bene. No, lo uso spesso adesso, prima non mi andava neanche di usarlo perché era tra l'altro sordo e non usciva, e usciva con 3 watt e qualcosa del genere. E quindi l'abbiamo tutto rimesso a posto e lo sto usando, ottimo per la truppa. Va bene, come vi ho detto, vedo un po' se riesco a uscire perché sta diluviando, a portare il bambino. Se ci siete, ci sentiamo dopo. Per il momento vi saluto, ciao Marco, Scorpio, Marcon, Condor, Giulio, Franco, Natalino e buonanotte, sono a tu e Roberto, dai. Il cambio era per Giulio, a te, ci sentiamo dopo se ci siete, a frappè. Ok, riprendo io allora qua, metti la sciarpa a Filippo e scoprilo bene. Sì. Beh, evidentemente il tuo DAC avrebbe bisogno di un bel ripristino. La valvola quando si esaurisce funziona lo stesso, però per potenza è ovvio, quello è normale. Ma quello baracchino, quello è spettacolare solo per la figura che ha, con quei 4 strumenti che sono meravigliosi. Poi tra l'altro io l'ho visto il tuo, il nuovo luogo, per cui va bene. Quando ti stanchi fai un fischio. Ma non credo che ti stanchi tanto in fretta, va bene comunque. Evidentemente così, io il mio Constat ha la valvola L84, Marco, non so se è ancora efficiente al massimo, dovrò provarlo, ma adesso sono un sacco di tempo che non l'ho più visto nemmeno, perché è tutto quanto dentro uno scatolone, per cui non so nemmeno quando lo riprendo se funziona ancora, ma suppongo proprio di sì. Al limite sono sempre con qualche condensatore da ripristinare, perché si sa, si spaccano, quindi allora incominciano a creare ronzii e balle varie. Va bene, avanti Franco. No, bel apparato questo Franco, che bene, una bella posizione chiara, limpida, senza affrontare, dai. Invece per quanto riguarda Roberto, io anch'io ho avuto un pack, mi ricordo, forse il primo apparato che ho comprato era un pack 80-30, non so se l'hai conosciuto, da paramobile, dai, lo usavo in casa. Sì, pace e baramobile hanno fatto una marea, almeno per quelli di nome era abbastanza conosciuto. No, quello che c'è io, stazione base, sembra un amplificatore elometrico in alluminio satinato, il frontale, ha 3 strumenti, c'ha l'orologio, il manopolone e il cambio canali, 8193 come modello, diciamo probabilmente penso che sia 74-75 come epoca, diciamo successiva ai primi anni 70, diciamo dopo metà degli anni 70 almeno come tipo di apparato. Funziona discretamente, magari modulazione insomma è buona. Ho notato che la buona modulazione, un difetto magari in ricezione, è troppo rumoroso come apparato, però diciamo in uscita va più che bene rispetto ad altri apparati. Ne ho diversi di baracchini in base, perché i veicolari non piacciono a me. C'è anche Royce e poi altri due della Intec. Vabbè, il Topo è quello, il Multicom, quello è il più bello di tutti, però diciamo nuova generazione è già un apparato completamente diverso da questi che stiamo parlando adesso. Scusa Marco, ci sei ancora? Allora no, questo è 40 canali, come hai detto tu, tutto in alluminio, la parte frontale è in alluminio pieno, c'ha tre strumenti, display digitale dei canali, 40 canali, bande laterali, AM, FM non ne ha naturalmente, è abbastanza grosso come, sembra più un amplificatore domestico che un coso, che un baracchino, dai, rispetto agli altri è un pochettino più grande, ma diciamo sono soddisfatto, è un apparecchio che non mi ha mai tradito, nel senso lo sfondo l'accento funziona sempre. Per me ieri quando l'ho provato avanti ieri aveva le batterie scariche, figurati, erano scadute nel 2011, aveva le batterie, figurati da quanti anni ce l'avevo, e riuscivo a tirarne fuori qualcosa. No, sto guardando questo tram che c'hai tu, ce ne sono due versioni, tu quale c'hai, quello grigio o quello frontale in alluminio, Marco? Sì, sì, lo sto guardando, Marco, molto carino, si vede una cosa imponente, molto bello, molto particolare questo sistema, questa grafica che c'ha per il cambio delle frequenze, bello, bello veramente. Sto guardando anche le valutazioni, cacchio, lo stanno vendendo anche abbastanza, qua $349 lo stanno dando questo qua. Ah guarda Marco, adesso c'è ragione, alla grande, qua c'è questo da far vedere, però questa è fenomenale, ci sono 11 foto, c'è il manuale d'uso originale, il microfono originale, è proprio perfetta, c'è aperta dentro, sembra uscendo dal negozio, questo la sta vendendo, se te lo dico ti metteva in testa, $1599. No, questa che c'è qua, ci sono 11 foto, c'è anche il fondo della carcassa, il case è perfetto, tutto anodizzato, c'è tutto curato, c'è aperta dentro, non so se le foto siano reali, però c'è il manuale d'uso che sembra un libro, da quanto è poi, il microfono fiammante, tutto il cavo, la cablaggio, è pulita, pulita, proprio, normalmente nel fondo dove ci sono le reazioni c'è sempre un po' di, poi questa è perfetta, come si chiama, non la verniciatura perché deve essere zincata, probabilmente con qualche materiale, è perfetta, nuova nuova, però cacchio, €1600 stiamo qua, $1600 sono circa 1200 euro più o meno, 1100, è già una cifra importante, però è un pezzo raro, mi stai dicendo, comunque veramente è una bella radio, anche se ti dico il DAC per me è più bello, anche se questo c'ha questa funzione particolare tipo sintonia continua che è una particolarità magari che la rende unica, però il DAC è DAC, sembra una cosa troppo bella. Ok Marco, ma io mi ricordo che in sintonia continua una volta avevo trasformato il vecchio Pony, quello alla base, io sto parlando degli anni 70, no? Avevo VFO della Elf Elettronica e mi era venuto in mente di collocarlo collegandolo al Pony, al transistor oscillatore l'avevo collegato del Pony, Marco, e con quel VFO funzionava la sintonia continua e prendeva tutte le radio del mondo, non sto scherzando, parlo delle radio nazionali eccetera, Radio Praga, Radio Russa, Radio Cinesi, dappertutto. Era questo VFO della Elf Elettronica, Marco, non so se l'hai conosciuto tu. Tagando 60, me a te, io sono quanto il Walter, anche il Walter è vecchietto, è del 57. Sì, Marco, non c'è. E per quanto riguarda invece quella parte di chiedere che la sintonia continua, però era senza frequentine, Marco. Deve essere uno spettacolo, vabbè. Sì, capo, infatti questo quando l'ho comprato, diciamo, l'ho acquistato, non funzionava proprio, l'ho tutto smontato, pulito, ha fatto la carica all'inizio e poi è stato a partire e adesso sta funzionando, diciamo, benino, dai. Ok, sì, sta funzionando molto bene, no, non c'è nessun problema. Beh certo, tu con tutte quelle radio che hai, Marco, farli girare, già ti diverti veramente. Vabbè, tu sei collezionista praticamente. Non sei certamente, o meglio io non sono certamente ai tuoi livelli, comunque una decina ce l'ho anch'io, 10-12 per l'esattezza, e intanto ne tolgo fuori uno e magari lo metto in funzione, però prevalentemente uso sempre questo che sto usando adesso, per cui va bene così, anche perché mi stanco di stare togliendo, rimettendo a posto eccetera eccetera, dunque va bene così, anche per lo spazio ridotto che ho, Marco, per cui non mi allargo troppo, ecco, con la fantasia di usare tante radio. Va bene, vediamo. Roberto, riprendi? Sì, c'è un'altra, stavo guardando quello di Marco, si sente la voce di Claudio, ma è in perfettissime condizioni, ma le serigrafie le ha rifatte fare, Marco. però complimenti, una bella del microfono cosa li aveva abbinato tu? No, è bello, il miglior abbinamento, infatti ce l'aveva quello di Walter, l'avevo sentito voltare nel più 3, probabilmente è il miglior abbinamento che ho sentito. Claudio esce benissimo, però ho detto se vuoi essere più pignolo Voltanner che ti dà la modulazione un pochettino più lineare, però anche qualcosa con l'MB più 5 va più che bene, ottima modulazione. Sì, diciamo a livello costruttivo sicuramente erano ottime e diciamo se usano componentistica di qualità riescono a funzionare anche dopo decenni, ricordo. Ok, facciamo girare avanti chi c'era, Franco di nuovo, poi c'era Natalino, non ho capito se è andato via o se c'è ancora. Sì, sta guardando anche questo microfono, davanti ha marcato pace, quello dietro c'è scritto anche a statiche, è possibile che sia la stessa lista? No, la Static probabilmente lo costruisce la Static e lo marchia come nome patch, probabilmente era abbinato con la linea lì del coso, però la Static produceva microfoni. Sicuramente questo è stato cambiato nel tempo, non lo so, tutto può essere. Ok, ho chiamato Natalino, non so se c'è ancora. Natalì, ci sei ancora? Io ci sono, ma sto in ascolto, non riesco a parlare, Roberto, vi ascolto, dai. Va bene, dai, ti guardiamo, dai, tu non parli, ti guardiamo noi. Ok, c'era Giulio, avanti Giulio. Ok, sì, mi prendo il microfono io, così almeno faccio questo ultimo passaggio, naturalmente vi saluto tutti. Ciao Marco, grazie per la chiacchierata, fatti sentire, noi su questo canale ci siamo praticamente tutte le sere. Ciao Roberto, ciao Franco, Natalino, Marco, Condor, se sei ancora all'ascolto, non lo so, evidentemente. E poi Franco, salutoli a tutti, vi ringrazio tutti quanti per questo, stasera è stato abbastanza bello, per cui ascolto il vostro finalino, dopodiché io mi trasferisco nella frequenza del piatto, lascio la 27 e uso quella del piatto, la frequenza. Riprendi pure Marco, dai, ascolto il finalino e chiudo, grazie ancora a tutti, ciao! E dai, io rimango in ascolto, non ce la faccio a parlare Marco. Avanti Franco. Venga, vai da dietro per i saluti per Giulio. Saluto Giulio, comunque buona cena, buon tutto. Avanti Roberto. Sì, ciao Giulio, sempre al solito un bel piacere ascoltarti. Per questo, dai, buon tutto, buon proseguo di serata. Alle prossime, ciao ciao. Perché anch'io che mi chiamano che l'ora di Pavesini. Quindi saluto Marco, ciò che avete sentito. Ancora complimenti per questa chiacchierata. Vinta, ci sentiamo. Che fatemi piacere. Saluto Roberto, Natalino, Giulio, l'ho già salutato. Marco Cosa, e quando rientra mi salutate anche Claudio. Allora, riprendi Marco. Sì, grazie per il microfono Marco. Sì, ciao Franco, ciao Giulio, mi sono arrivato adesso, sono arrivato proprio a Marco che mi stava dando il cambio. Mi gioco fatta bene, adesso mi do un Marco 23. Poi riprendo, dai. Ciao a tutti quelli che sono andati via, comunque anche a Natale che si sente dalla modulazione, è un po' giù, quindi meglio Natale non sfruttare molto le corde vocali. Io sono stato un po' in silenzio un paio di settimane fa proprio perché non avevo lo stesso problema e ho avuto anche un'operazione, quindi devo fare da bravo. Ok, va bene, adesso mi è uscito proprio nominativo. Robert, riprendi tu che io mi do una passatina di aria calda che ci ho goduto in fuso in cabo. Ci sentiamo tra un attimo, riprendi Robert. Ok, fa. Già, ecco che qualche nome ho detto non aria calda, ma alcuno. Ciao Claudio, ci sentiamo dopo. Ciao Franco, grazie della chiacchierata, risentirci presto, ciao ciao. Di nuovo chi c'era? Avanti Marco. Break? Sì, ok. Ho sentito un break, avanti il break. Sì, ciao Roberto, Fabrizio, ciao Marco. Ascolta Marco, sto provando quel portatile. Ciao Roberto, sto provando un portatile. È sempre di quelle che erano in scatola da Walter, regalato da Walter e mai utilizzato. Sì, con l'antenna esterna la sto utilizzando, sto cercando dove il microfono, non vedo nemmeno il buco, vabbè che con gli occhiali ormai, voglio farlo vicino qua, c'è da qua il buchettino, che ne so. Comunque, adesso l'ho collegata, ho fatto quello spinottino, quell'adattatore, ho collegato l'antenna, la Stellar mi pare, o ciò, quella lì. Sì, quindi sto provando, a te Roberto, ben sentito, sto usando, l'ha detto Marco, questa radio vecchia, questo portatile. Cavolo, stai arrivando la bomboletta, se ti dico il segnale ti metto le mani in testa, sei quasi 9 più 30, complimenti, non so cosa c'hai sotto, se ti stai aiutando, comunque la potenza, il segnale è esagerato, quasi 9 più 30, sembri qua a fianco a me, una bella potenza, dai. La radio è leggermente cupa però molto chiara, niente da dire. No, sto usando, credo 5 watt abbia questo baracchino, o di meno, non lo so Marco, magari lo so meglio di me. No, sto usando la Stellar collegata al baracchino, a questo baracchinetto portatile, 23 canali, solo questo sto utilizzando. La radio ovviamente è quella che esce dal microfonino interno del portatile, quindi forse anche troppo bene. A te Marco. Fabrizio. Vai Robè. No, non ho capito, quindi è un portatile, no, pensavo fosse un veicolare, ma cosa mi ha detto, un Endicom? Sì, un Endicom, la Fayette e quello che sono 23 canali, è un portatile, è il classico portatilino, quelli grossi che si vendevano un tempo, io di questo avevo l'Excalibur 80 canali, quando ero ragazzino, e va bene, non lo so, me l'ha dato, adesso ho provato, ho collegato, perché c'è l'uscita che da 3.5, e ho fatto il connettorino con l'attacco PL, ho attaccato l'antenna esterna, e sto usando l'antenna esterna, poi tu dico, sto cercando di capire dov'è esattamente, se su, ma non vedo nemmeno il forellino per il microfonino, vabbè, parlo direttamente dove c'è l'altoparlante esterno e dovrebbe andare bene, non sto nemmeno urlando. No, va benissimo, no, io pensavo fosse un coso, ne ho due di quegli apparati, però io ce l'ho a 40 canali, quello nero un po' grossetto, che non ha neanche lo strumentino, che c'ha il cambio canale sopra e il volume. E questo forse è un po' più vecchio, questo è il classico manopola 23 canali, che se non sbaglio adesso sto provando, ma non so se gioca, non si illumina nemmeno. Ma non è vero, cioè noi i canali sono digitali a barrette verdi. Ah, ho capito, non neanche uno io, uguale allora, però è azzurro metallizzato, in ferro, cioè in alluminio pesante. Sì, ne ho due di quelli lì. E ne ho, no, no, io quello che ho detto io era l'Endicom più recente, era con l'antenna connettore in gomma, lo fraccavi e ci puoi mettere l'antenna. Quello che stai dicendo c'è l'antenna allungabile e c'ha due potenze, cioè per commutare due potenze. No, questo va solo in una potenza, mi sembra, non c'è nessun tasto, c'ha lo squelch, il volume, il tasto la manopolina dei canali, poi a fianco c'ha CBPA per ricaricare le batterie, l'alimentazione, forse c'è anche il microfono, puoi mettere, mi c'era il tastino, qualcosa del genere. No, te andava alla grande, complimenti. No, io pensavo fosse un veicolare. No, si sente, se sta utilizzando l'altro palantino, quello che funziona anche per ricezione, va più alla grande. Quello anche di ricezione fa questo, quello lì, dai, quello lì, va bene, cioè, va bene. Come dicevo oggi Marco, ho provato a collegarlo e a provarlo, infatti come sono salito ho fatto questo sfinottino, è che non ho collegato, diciamo, con dei coccodrilli dietro la batteria, dove c'è il pacco batterie, perché non ho lo sfinotto, è uno sfinotto tipo quelli che usiamo in genere noi, però non entrava, bisognerebbe andare da fusare e trovare, già ci vado a prenderli, adatto per, anche con gli adattatori che ho non sono riuscito ad alimentarlo, ho dovuto usare i coccodrilli da agganciarlo dalla batteria per capirci. No, va benissimo, oh, bello, adesso ne stiamo rispolverando tutti, già ne ho diversi di questi baracchinetti, queste cose così, ne avevo preso un pochettino, non sono nuovissimi, però a parte quello Endicom, quello che stavamo parlando io, che quello è nuovo, poi ne ho trovato uno in quei mercatini che fanno in Piazza d'Italia, ogni tanto c'era un altro, 10 euro glielo ho dati e me l'ha dato, ma ne ho diversi di questi portali, ne ho uno nuovo fiammante della stesso Midland, però mi sembra che sia 10 canali da quarzare, ce ne sono due quarzati quelli. Quelli sono ancora più vecchi, quelli da quartare, mi ricordo, va bene, mio padre ne aveva uno, forse che era un canale da quartare o tre canali, forse tre canali, o sei canali, il Pony poi avevo sei canali quartabili, non mi ricordo, ma è una cosa incredibile, tutto nero, grande, non me lo ricordo, mi ricordo che questa cosa era in ospedale e c'aveva, che era stato male, e c'aveva questo portatile nero con una custodia, ma era quartabile, forse aveva pochi canali quartabili, non, molto vecchio però, A te Marco. Sì, ho visto. Questa è carina anche perché non era mai stata usata, c'è la sua scatola originale ancora. Gli manca l'accetto forse, e poi non ho capito qua, te la faccio vedere, non ho capito se sembrerebbe che gli manca il cappuccetto, lo sai questa radio. Te la faccio vedere. Fine dell'antenna, rimane con una specie, non ho capito, di scotch, sembrerebbe che gli manca quel, capito, col cappuccetto che va a chiudere. Sì, con un nastrino intorno, anche io mi ricordavo così, che fa cappello. Adesso lo metto, adesso me lo metto in coda, come si chiama, adesso lo cerco su internet se lo trovo. Vediamo, è tanto lì, non è, è tutto ordinato, non è un grosso problema, dai, lo troviamo sicuramente. Lo sapete, faccio pure di baracchino, adesso mi sono ricordato. Sicuramente l'avete conosciuto, non dico tanto Fabrizio, perché non lo so se era dell'epoca tua, diciamo che i vecchi CB. Io ce l'avevo mio zio, se ricordo il Midland che era dentro un astuccio in cuoio con le batterie incorporate che si poteva trasformare in un veicolare. E poi parlando di vintage, parliamo di ricevitori, io ho trovato un colpo di fortuna, una signora che ce l'aveva il marito, una cliente d'officina, ho recuperato, non so se ti ricordi all'epoca, qua stiamo parlando degli anni 70, della Grundig, il Satellite 3004 Professional, era il tocco della gamma della Grundig dei ricevitori, una bestia, se c'è tempo te lo mando in WhatsApp. Ne ho trovato per un altro che era, le avevano fatto un danno con l'alimentazione, però l'ho fatto sistemare e me l'hanno messo a posto. Quello che ho io è il nuovo fiammante, ci avrà 20 bande di ricezione digitale, c'ha le scale graduate normali, analogiche, più c'ha il frequenzimetro digitale, c'ha le bande laterali, c'ha tutto, ma se lo devi sentire in ricezione, Marco, ci posso garantire, io ho la R3000 a casa con l'antenna esterna, non riesce a ricevere le stazioni che riceve lì con quell'antenna sua. No, questo non c'entra niente, questo è un professore universitario, questo era uno scienziato nel campo suo, studiava lingue, parlava 10 lingue, studiava le lingue orientali, insegnava lingue orientali e lui lo faceva per ascoltare queste cose qua, perché era insegnante a scuola di queste lingue qua, ma è nuovo fiammante, perfetto, mi ha dato anche le manuale di istruzione, tutto quanto. E poi cercando su internet, scusa, ne ho trovato un altro, però c'ha l'antenna mezzo tagliata, e l'hanno alimentato a 110, a 220 anziché con la commutazione a 110, ed era partito un transistor, non mi ricordo se un diodo, adesso mi ricordo, l'ha visto un amico, l'ha sostituito immediatamente, è perfetto. No, ce l'aveva già, era già predisposto, cioè il jack è per l'antenna esterna, capito? Se guardi su internet c'ha un paio di ganci, anche per il microfono esterno alla fine c'ha lui la possibilità, guardando bene. No, c'ha proprio la possibilità di mettere l'antenna esterna con un jack da 3.5. Di ricevitore c'ho anche che un barrasone, lo conosci, il Sommercamp, l'FR101 Digital? Sì, sicuramente è quello, è un barrasone valvolare, te è presente, non dico che è il doppio del 4.40 di altezza, però siamo lì una volta e mezzo di larghezza più largo, c'ha un monopolone centrale analogico e poi ti appare la frequenza digitale, c'ha uno strumentone grande, c'ha una marea di selezioni che non so neanche come cattiva cosa possono servire. Sì, è a valvole questo, è grande, è una cosa grande, vecchiotta, e rimane il frontale grigio scuro, la parte tutta la carcassa che è grosso, un lamettone grossa è tipo beige, una cosa così, c'è un coperchio con delle viti asportabili in modo veloce e poi c'è una marea di funzioni di preselezioni, ci sono tutte le bande, c'è 16 metri, 31 metri, 60 metri, 13 metri, 11 metri, 19, c'è una marea di cose. Sì, vabbè, ma comunque la valvola ha sempre il suo fascino, è inutile, da tutte le parti, poi è bella questa cosa, si illumina, bella. Ascolta, io vi lascio, che mi ha chiamato mia moglie che è pronto da mangiare, magari più tardi, vediamo, se ne ho voglia accendo anche un po' le radio qua, ci sentiamo magari anche su qualche altra frequenza. Va bene, ciao Marco, ciao Roberto, mi ha fatto sentire, fa piacere sentirti, ma io qui sto accendendo poco perché Marco ti potrà dire anche dall'altra parte, non sto accendendo molto perché è un periodo che sto facendo tante cosucce e poi sono anche stanco, non è a bada periodi, dai. Ci sto molto magari in stazione a fare quattro cose, ma radio, collegamenti, poca roba, e quindi non sono né qui né là. Va bene, ciao Robert, ci sentiamo. Marco, a dopo magari. Ehi, ciao Fabio, ben sentito, sempre un piacere, già lo sai, non ci sono problemi, anche io non è che entri molto, in questi giorni c'ho un po' più di tempo libero e sto entrando. Ok, anche io tra poco devo chiudere, c'ho anche una Recraft, però è un trasmettitore, ho convinto fosse un ricevitore, invece è un trasmettitore. Sì, ok, ciao. a tutti, ciao Robert, ci sentiamo. Vabbè, ma poi col 440 sta sempre andando bene, sì. Non lo sento. Allora va bene, come l'accendi tutto a posto, sì. Sì, ok, sì. Poi se capita ti voglio chiedere un'informazione per un altro, però questo è un 711 che sicuramente lo conosci, e per farlo funzionare in ascolto devo attaccare le cuffie perché se no non si sente niente, non ho capito che problemi posso avere. Vabbè, ho capito anche la provenienza. Va bene, te lo controllo, non c'è problema. Ciao, ciao, ciao. Ciao, come al solito gentilissimo. Vai Marco. Sì, sì, sicuramente. Poi piano piano, vabbè, ma adesso c'è anche troppa roba in questo affare qui, però voglio mettere sopra. Ma io in officina c'ho anche altre radio di un altro tipo, di altri generi di radio, cose anche più vecchie, di cose del genere. Solo che è inutile mai rimetterle solo per vetrina. Questo qua, se trovo un ricevitore, sicuramente io lo accendo anche il ricevitore, perché mi piace utilizzare gli apparecchi per lasciarli così bloccati e farli solo vetrina. Sì, ti saluto Gianni, c'è Marco Scorpio, non so se l'ascolti, te lo rilancio così se riusciamo a parlare è meglio. Cavulia, sei quasi 9 più 10, la radio è molto forte, è potente, adesso chiedo conferma a Marco se lui ti ascolta. Marco in situazioni un po' critiche, nel senso che è macchina con un vintage, probabilmente è simile a quello che stai utilizzando adesso tu. Avanti Marco, sei ascoltato a Capri. Sono rientrato, Kappa, ok, molto bene. E alla fine mi sono dovuto fare una veloce a casa perché sentivo anche il freddo, mi sono bagnato sui sett'ombrello, pensavo che fosse, si poteva stare col cane fuori, invece è un casino. Ciao Gianni Capri 2, buonasera, ben ascoltato. Stavo dicendo, allora poc'anzi Marco tu hai detto delle antenne, allora a me sono riuscito a recuperare da uno appunto che ha messo un altro tipo di antenna la Grand Prix, quella da 2,75 radiale, quelle grande, non la mini Grand Prix, proprio quella grande che si usava un tempo, che era fatta in due radiali, no? Che sì, un pezzo in alluminio e l'altro in vetro resina, quella lì. Però lì ce l'avevo anche provata e funziona benissimo, solo che fa un TVI allucinante. No, infatti l'avevo staccata e rimessa sui mansarda. E poi per quanto riguarda la Mantova, io dalla 5 appunto, come hai detto tu, volevo la 1 e non ce n'era nessuna parte. È capitato che Michele allora si trovava proprio lì a Mantova, si trova a Mantova per lavoro, e ne aveva portato due, una c'era ancora lui in ballata e l'altra l'aveva data a me, perché diversamente non si trovano, è un casino. Le radio va bene, io me ne sono rimaste diverse, a parte vabbè quella che avevo dato a te, mi è rimasto il DAC, il Superstar 3009, l'Aran 48, qualche altro base che non so manco se funziona più, però per non metterle qua avevo deciso di usare solo il DAC. Va bene, Gianni Capri 2, buonasera, ti rimetto il cambio, buona modulazione, buon segnale, questo 5008, tu usi sempre il motore di garraggio che comunque funzionano benissimo. A te il cambio. Sì, sta usando benissimo, canale forte, radio comprensibilissima, molto, molto potente. Ok, se devi andare ti saluto, anche io adesso chiudo, devo andare a mangiare qualcosa, che lo stomaco sta brontolando. Vi saluto tutti, Claudio, Marco, Gianni e eventuali amici in ascolto. Poi vedi da parte mia, buon tutto a tutti. Vai Marco, sì, Kappa, va bene Roberto, va bene. Ci sentiamo, dai, al limite ci vediamo domani se passo. Ok, dai, ciao a tutti, anch'io chiudo che mi hanno chiamato anche a me. Buona serata a tutti, buon fine serata. QRT anche per me, alle prossime, ciao ciao. Sì, QSL, ok Marco, ti saluta Gianni Capri 2. Dai, ciao a tutti, buon fine serata, buon tutto, alle prossime, ciao ciao. Sì Marco, ti salutava Gianni Capri 2 che stava chiudendo, Roberto ha chiuso e anch'io chiudo per andare a Papai, ok? Appunto stavo dicendo di quella Grand Prix, ma per il resto non si trova assolutamente niente, più niente. Ciao ciao ciao, buonasera, buonanotte, ciao ciao. SKCL, Antonio Uoio diceva.